siamo. Ecco, l'altra volta stavamo vedendo il capitolo che avevamo intitolato La morte per Gott. Si tratta di un discorso notevolmente impegnativo che vi ripeto cercando di sintetizzarlo nelle sue parti fondamentali. A me quindi gli occhi nel ripasso. Vi ricorderete anzitutto che avevamo parlato di questa instabilità che offre la vita, per cui trovare un modo per identificarsi nella propria vita è difficile. La vita è instabile, è confusa, e i sentimenti che si concepiscono all'interno della vita sono anch'essi instabili e confusi, primariamente l'amore, e l'episodio che abbiamo considerato ultimamente era quello del naso della lattaia. Un naso che sembrava in un certo modo, in un certo senso, si poneva sul viso in una posizione o nell'altra, si aveva la sensazione che ci fossero 10 o 20 nasi diversi, tutto questo mentre dava una sensazione di sgradevolezza alla ragazza, al contempo la rendeva, per così dire, misteriosa e magica. E Proust se ne esce in un'osservazione fondamentale: tutto questo basta a far nascere l'amore. Contrariamente a quanto si crede da parte della gente comune, l'amore non nasce affatto da bellezze, vuoi maschili o vuoi femminili, begli occhi, bei corpi, ma nasce da qualche caratteristica, da qualche peculiarità, che so, il tono della voce, qualche peculiarità che noi inglobiamo per motivi misteriosi nella nostra attenzione. Ma certo la vita non ci dà un senso di stabilità, e allora l'idea proustiana è che questa stabilità la si possa cercare nell'arte. Ai suoi tempi Proust aveva un modello di arte che si suol chiamare estetismo e che rappresenta una sorta di appendice derivazione del cosiddetto decadentismo, questo grande movimento culturale che occupa la seconda metà, grosso modo, dell'Ottocento in Francia e in paesi d'Europa, in Inghilterra, in Germania, in Italia. Definire che cosa sia l'estetismo è cosa molto complicata, e io vi ho proposto due elementi che sono due indizi abbastanza sicuri per capire di che cosa stiamo parlando. Estetismo è una tendenza a confondere la vita con l'arte, a voler vivere, per esempio, la propria vita come se fosse un'opera d'arte, non attenendosi a criteri morali, devo fare il bene, devo rifuggire il male, ma a criteri di bellezza. Non soltanto nel modo più fatuamente esteriore, mettermi un garofano verde, come faceva Oscar Wilde, vestirmi con un particolare ricercato lusso, ma facendo atti che abbiano a che fare con la bellezza e non con la morale. Abbiamo degli esempi di questo tipo di cultura, uno è da noi il più celebre, Gabriele D'Annunzio, un altro esempio, anche troppo celebre a dire la verità, è Oscar Wilde, ma potremmo continuare, Swinburne e altri. Vivere la vita come fosse un'opera d'arte significa, in buona sostanza, far questo. Io amo una donna non per i suoi meriti personali, fisici, intellettuali, morali, sessuali, no, ma perché questa donna somiglia a un personaggio di un quadro che mi piace molto. È il caso di Swann, che ama Odette della Recherche perché gli ricorda un personaggio di Botticelli nella Cappella Sistina, la figlia di Jethro. Oppure amo una figura di un quadro non in se stessa, ma perché mi ricorda la ragazza del piano di sopra. Questo confondere la vita con l'arte, perché è pericoloso agli occhi di Proust? Perché l'arte, per quest'uomo non religioso, è l'unica religione possibile. E l'arte deve essere amata in se stessa. E le contaminazioni con la vita sono pericolose. In qualche modo la inquinano. L'arte deve essere amata, come dire, in ginocchio deve essere amata senza altri punti di riferimento. Va bene? Punto 2. Bergot è uno scrittore. Nella Recherche vi sono tre numi tutelari. Uno riguarda la scrittura, la letteratura, l'altro la pittura e l'altro la musica. Quello che riguarda la letteratura, lo scrittore, è Bergot. Bergot è ricalcato su un'immagine di scrittore nota ai tempi di Proust e che fu un benefattore anche di Proust, Anatole France. Anatole France era uno scrittore molto, come si dice, settecentesco, limpido, lucido, molto attento a dettagli di bellezza. Proust era naturalmente grato ad Anatole France perché gli aveva fatto la prefazione del suo primo libro, però, diciamo la verità, non voleva essere come Anatole France. Bergot è uno scrittore estetizzante, quindi è uno che confonde la vita con l'arte. E diciamo subito in che cosa mostra di confondere la vita con l'arte. È malato, ritiene che i medici non possano guarirlo e decide, il passaggio è molto sottile, e decide di andare a vedere una mostra in cui c'è esposto un quadro di Vermeer, del pittore olandese Vermeer, come se, la cosa non è detta esplicitamente, la visione di Vermeer potesse guarirlo, confondere la vita con l'arte. Vi ho detto che l'estetismo è distinto da questo confondere la vita con l'arte. Adesso vi do il secondo indizio per identificare l'estetismo. Nell'estetismo c'è una volontà di rendersi belli dei dettagli. Questo è il secondo indizio, una volontà di rendersi belli dei dettagli. Quali dettagli? Non dei dettagli che siano oggettivamente belli in sé, ma dei dettagli che io mi impongo di ritenere belli. Facile trovare bello il viso di una bella ragazza, ma se io decido che è bello il sudiciume sotto l'unghia, lì effettivamente mi possono prendere per pazzo. Se al di là del paradosso noi diciamo ritengo bello in quel quadro un dettaglio che nessuno ha mai visto, ma io lo vedo e quindi diventa in qualche modo mio, perché l'ho scoperto io e dico che è la cosa più bella del mondo, questo è estetismo. Quindi una volontà di trovare belle le cose indipendentemente dal fatto che esse possano offrire un appiglio per essere considerate realmente belle. Due, è confusione arte e vita e volontà di trovare le cose belle. Chiaro? Questo discorso che vi sto facendo è di importanza estrema, e il fatto che voi abbiate un'età così tenera e giovane non vi può far capire quanto è importante, perché tutta l'arte moderna si muove su quello che stiamo dicendo. Tutta l'arte moderna si muove sulla base di quello che stiamo dicendo. Bergot comunque confonde arte e vita, vi ho detto, e va a vedere un'esposizione di Vermeer quando dovrebbe curarsi. Ma lui è convinto che i medici siano stupidi e non riescono a curarlo. Lì, davanti a un'esposizione di Vermeer, di un quadro famoso, è preso da una crisi davanti a una cosa che, attenzione, ha deciso che è bella. Ora, attenzione estrema, non stiamo parlando del sudiciume sotto l'unghia, stiamo parlando di qualcosa che è oggettivamente bello. Ma dire come fa Bergot, questa è la cosa più bella del mondo. Anzi, non solo è la cosa più bella del mondo, ma è la cosa che mi fa capire che io ho sbagliato nella mia scrittura. Perché nella mia scrittura avrei dovuto mettere plusieurs couches de couleur, più mani di pittura. Nel senso che io dovevo dipingere, dovevo usare, per esempio, parole più intense, così come qui Vermeer ha usato per dipingere un piccolo pezzo di muro, non due mani di giallo, ma cinque. E così io avrei dovuto usare parole un pochino più intense, un pochino più forte, esattamente come Vermeer ha usato cinque mani, diciamo così, di colore, anziché due. Quindi in due casi Bergot si rivela esteta. Il primo, confusione vita arte, il secondo, attenzione a un particolare di bellezza che, guarda caso, beffardamente, è proprio quello che gli fa capire che ha sbagliato. Il segno dello sbaglio della sua vita lo si ha con il fatto che lì, davanti a questo quadro, Bergot muore. E adesso leggiamo il passo. L'avete con voi? Ricordate la pagina dei vostri compagni? Che pagina è la vostra? L'avete tutti davanti? No. No? La morte di Bergot, non l'avete davanti? Non l'avevamo cercato. Ma non l'avete trovata? No. Ecco, vediamo un po' se si riesce. No. Ecco qui. Questa edizione. siamo. Ecco. Maison Critique, a pagina 285 in questa edizione, dopo una decina di righe, trovate, 8 righe, quello che sia, trovate scritto: il mourut dans les circonstances suivantes. Qua. L'avete trovato? Voi avete un'altra edizione? Sì, questa qui. Pagina 176. 176, terza riga. Benissimo, bravo. Allora, morì nelle circostanze seguenti: una crisi di uricemia abbastanza leggera era una causa che gli aveva prescritto il riposo, ma un critico, avendo scritto che nella veduta di Delft, vi ricordate che vi ho fatto fuggevolmente vedere questa veduta di Delft, sarebbe opportuno che qualcuno l'avesse, lei se l'ha vista per conto suo poi? Chi è che l'ha vista? Su internet. Fatta la mostra. Ma non c'era la veduta di Delft? No. Puoi immaginarti, adesso con quella veduta di Delft ci sarebbero state una specie di esercito dietro. Su internet ci sta una bella immagine. Ci sta una bella immagine. Ecco, io però vi inviterei, ragazzi, a essere parte attiva della vostra vita. Ecco. Avete capito bene? Cosa vuol dire farsi attiva della propria vita? Senta, lei ha il ragazzo? Diciamo. Questo è un segno negativo. E lei dovrebbe essere parte attiva nel senso, o questo ragazzo lo voglia, o se ne fa un uomo, ma deve essere sostanzialmente così in tutto quello che fa, essere parte attiva. Questo diciamo di questa ragazza è un segno dei tempi, è un tragico segno dei tempi, non diciamo. Quindi la veduta di Delft è importante che la veda. Mi promette che la vede? Guarda, è una promessa che, come si chiama lei? Alceste. Celeste. Dico Alceste. Vada a vedere la veduta di Delft. Capito? È vero che bisogna essere parte attiva della propria vita. Non devi farti succedere la vita. Vuoi un uomo? Trova. Vuoi Vermeer? Facilissimo, vai lì, lo stacchi dalla parete, lo porti via, te lo porti a casa, te lo metti davanti al letto, chi lo sa, si genererà naturalmente un panico nel mondo, ma intanto hai fatto qualcosa. Fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Questo è chiaro, anche se lei è così piccola, ho detto in giro, ho detto c'è una ragazzina a lezione da me, ho detto che è così piccola che mi fa già sentire morto. Non so se è una buona cosa oppure. Ma veramente guardi, è funebre la sua presenza nella mia vita, è funebre. Non lo so, è da toccarsi i genitali perché mi fa sentire morto. Mi fa sentire morto, non è possibile. Faccia qualcosa di. Vabbè, scusate la polemica. Allora, un critico che avendo scritto che nella veduta di Delft di Vermeer prestata dal Museo dell'Aia per una mostra olandese, quadro che adorava e credeva di conoscere molto bene. Una piccola ala di muro gialla, si viene tradotta sempre così, un petit pan de mur jaune, che lui non si ricordava, era così ben dipinta, che era, se lo si guardava da sola, come una preziosa opera d'arte cinese, di una bellezza che sarebbe bastata a se stessa. Bergotto mangiò qualche patata, uscì e andò alla mostra. Dai primi passi, dai primi gradini che dovette salire, fu fu preso da stordimenti. Passò davanti a parecchi quadri ed ebbe l'impressione della secchezza e dell'inutilità di un'arte così fittizia, e che non valeva le correnti d'aria e di sole di un palazzo di Venezia, o di una semplice casa in riva al mare. Finalmente fu davanti al Vermeer, che si ricordava più clamoroso, più diverso da tutto ciò che conosceva, ma dove, grazie all'articolo del critico, notò per la prima volta dei piccoli personaggi in blu e che la sabbia era rosa e finalmente la preziosa materia di tutta la piccola ala di muro gialla. I suoi stordimenti aumentarono, fissava lo sguardo come un bambino a una farfalla gialla che vuole afferrare, fissava lo sguardo sulla preziosa piccola ala di muro. «È così che avrei dovuto scrivere», diceva. «I miei ultimi libri sono troppo secchi. Sarebbe stato necessario passarvi parecchie mani di colore, rendere la mia frase in se stessa preziosa, come questa piccola ala di muro gialla». Frattanto, la gravità dei suoi stordimenti non gli sfuggiva. In una celeste bilancia gli appariva, su uno dei due piatti, la sua vita, mentre l'altra conteneva la piccola ala di muro così ben dipinta di giallo. Sentiva che aveva imprudentemente dato la prima per la seconda. «Non vorrei proprio», si disse, «essere per i giornali della sera il fatto di cronaca di questa mostra». Si ripeteva: piccola ala di muro gialla con una tettoia, piccola ala di muro gialla. E frattanto si abbatté su un canapè circolare e altrettanto bruscamente cessò di pensare che la sua vita era in gioco. E tornando all'ottimismo si disse: è una semplice indigestione, che mi hanno dato quelle patate non abbastanza cotte, non è niente. Un nuovo colpo lo abbatté, rotolò giù dal canapè per terra, accorsero tutti i visitatori e i guardiani. Era morto. Morto per sempre? Chi può dirlo? Certo, le esperienze spiritiche, non più che i dogmi religiosi, non danno prove che l'anima sussista. Quel che si può dire è che tutto avviene nella nostra vita come se noi vi entrassimo con il carico di obblighi contratti in una vita anteriore. Non c'è alcuna ragione nelle nostre condizioni di vita su questa terra perché ci crediamo obbligati a far del bene, a essere delicati, perfino a essere educati, né per l'artista ateo a credersi obbligati a ricominciare 20 volte un brano, la cui ammirazione, quella che desterà, importerà poco al suo corpo mangiato dai vermi, così come l'ala di muro gialla, che dipinse con tanta scienza e raffinatezza un artista per sempre sconosciuto, appena identificato con il nome di Vermeer. Tutti quegli obblighi che non hanno la loro sanzione nella vita presente sembrano appartenere a un mondo diverso, fondato sulla bontà, lo scrupolo, il sacrificio, un mondo interamente diverso da questo e da cui noi usciamo per nascere a questa terra, prima forse di tornarvi a rivivere sotto l'impero di quelle leggi sconosciute alle quali abbiamo obbedito perché portavamo in noi l'insegnamento senza che l'avesse tracciato nessuno, quelle leggi il cui lavoro profondo dell'intelligenza ci avvicina a coloro che sono invisibili, a ciò che è invisibile per le persone che non comprendono. Di modo che l'idea che Bergotte non fosse morto per sempre è senza inverosimiglianza. Lo seppellirono, ma tutta la notte funebre, alle vetrine rischiarate, i suoi libri, disposti 3 a 3, vegliavano come angeli dalle ali spiegate e sembravano, per colui che non era più, il simbolo della sua resurrezione. Questa mirabile pagina, dobbiamo ancora fare qualche piccola osservazione. Questo confondere arte e vita, avete visto che si manifesta quando lui entra e dice: questi quadri non valgono niente a petto delle correnti d'aria dei palazzi di Venezia. Ma che c'entrano i palazzi di Venezia? Questo è il punto. Cioè, se tu confondi arte e vita, allora c'entra. Ma se tu dici che un quadro è un quadro, allora la vita è un'altra cosa. Posto questo non l'ha elaborato con la stessa precisione con cui l'ha elaborato, per esempio, il maggiore dei simbolisti, Mallarmé, che l'arte non c'entra niente con la vita, non c'entra niente. Però certamente gli esteti invece confondono. Ora, perché lui dice che Bergotte sbaglia? Che cosa significa questa punizione di Bergotte? Significa qualcosa di molto serio. Proust teme di diventare Bergotte. Se diventa Bergotte, cioè se confonde la vita con l'arte, se si perde dietro un particolare, se si perde dietro un particolare di bellezza, allora non potrà più fare attendere a quel grandioso progetto che lui ha. Da una parte gli esteti si occupano del particolare di bellezza, ma lui dice che l'arte non è questa. E allora l'arte in che cosa consiste, se non consiste nel dettaglio prezioso? Attenzione, l'arte non consiste nei dettagli preziosi. L'arte consiste nei rapporti. Quindi potremmo dire nelle atmosfere. Proust scrive a un certo momento, anzi il narratore scrive a un certo momento: io mi ero persuaso che non sarei mai stato uno scrittore, perché gli scrittori che conoscevo erano dei maestri nel raccontare, nel descrivere i dettagli, e io non ero capace, non li vedevo, quindi pensavo che non sarei mai stato uno scrittore. Ieri sera stavo leggendo uno splendido libro famosissimo, in un inglese mirabile, e che è Jane Eyre. Chi conosce Jane Eyre di voi? Lo conosce. Devo dire, ero incantato. Questo libro è un libro del primo 800 e a un certo punto c'è una descrizione di una passeggiata in campagna che guardavo, rimiravo le bacche, i mirtilli e come era ben detto. Era ben descritto il muro di una casa e pensavo qualcosa, si parla lì, c'è per componere Magnis, qualcosa di proustiano, pensavo. Dicevo, per fortuna non sono romanziere, perché io non sarei mica capace. Perché non sarei capace? Fatti personali. Una volta ero un fotografo, dilettante naturalmente, però ero bravo. Poi a un certo punto ho smesso. Le mie fotografie piacevano, ma non piacevano più a me. Avevo fatto delle esposizioni, lavoravo per il teatro molti, molti anni fa. E so perché ho smesso. Perché mi annoiavo di guardare i dettagli. Perché mi interessavano un po' come a Proust, ripeto ancora una volta, fatte le debite distanze, brevemente. Guardavo ai rapporti. Una macchina fotografica che cosa serve? A fotografare la ragazza quando è bella. E quando non è bella vengono fuori dei dettagli magari sgradevoli o quando è poco bella, che un fotografo abile sarebbe capace di nascondere o di valorizzare in altro modo. Invece un fotografo da nulla è solo capace di metterli in evidenza. E quando a un certo punto si comincia a capire che gli esseri umani, cose pericolosissime e depressive, ti interessano poco, allora dici, ma cosa serve usare una macchina fotografica? E pensavo ieri, guardando questo libro, a un interesse bellissimo che c'è nella grande, grandissima autrice che ci hanno pronte. E in certe cose più brava perfino della più famosa sorella, Emily Bronte. Quella di Wuthering Heights, come sapete. E la invidiavo. E quindi mi ritrovo abbastanza bene in quest'idea di Proust che dice io non sono capace di raccontare i dettagli. E infatti nella recherche noi vediamo atmosfere, rapporti e non dettagli. Bergotte era uno che raccontava i dettagli. E quindi Proust è come se si mettesse in guardia. Non voglio essere come Bergotte, non voglio far la fine di Bergotte. Adesso iniziamo semplicemente, perché siamo assai indietro, a vedere, se la troviamo, l'episodio successivo, molto avanti. Eccolo qui. Dunque, adesso cerchiamo di trovarlo. Però vorrei avere una copia di questo libro, vediamo se riusciamo a trovarlo. Questo cos'è, la prigioniera? Sì. Questa è tutta la prigioniera, sì. Ecco, siamo forse vicini. Eccolo qui, 324 di questa edizione. Allora. Ecco qua, da Cette fois-ci encore, questo qui, e vedete un po', qual è l'altra edizione che avete a disposizione voi? Vediamo un po' se lo si trova qui. ecco qui 445. 445, ecco qui. Ecco qui. Adesso ve lo dico. E cette fois-ci encore, je n'avais pas le temps de garder. Qua. Qua. Qua. Va bene? L'avete tutti adesso, eh? Allora, il titolo di questo capitolo, che è l'ottavo, è... Mi soffermo qualche minuto in più per leggerlo, perché siamo, come sapete, molto indietro nel corso. E avete un altro corso subito dopo? No. No, allora mi soffermo qualche minuto in più. Il titolo è, nel capitolo, il titolo che ho dato è Una frase oscena. Siamo nel colloquio Albertin, il narratore naturalmente, e c'è stata una scena precedente in cui il narratore è andato a trovare Madame Verdurin. Come sapete, il narratore è geloso di Madame Verdurin, va bene? Cioè geloso che Albertin possa avere dei rapporti con Madame Verdurin. Se non che voi sapete che la miglior difesa è l'attacco, e quindi se voi siete gelosi di una persona, l'altra può ricambiarvi la pariglia dicendo che è gelosa di voi, e come si suol dire, rivolta, la frittata. Avete capito bene? È chiaro il concetto? Bene. Vi prego di notare la assolutamente inconfondibile, misteriosa tenerezza, ambigua e feroce. Ambigua e feroce. Non so chi parla bene come me in questo video. Perché lei pensa qualcuno che parli meglio di me? Lei sì, dice, io da una sperma. Con cui il narratore si rapporta a questa donna. Cioè, noi siamo abituati, diciamo la verità, che quando c'è un rapporto sentimentale e sessuale, uno ha capito, la scuota così brutta troia, cose di questo genere, avete capito, no? L'idea che la tratti così in punta di forchetta è molto strana. Ma è questo il gioco, perché noi non riusciamo a capire bene com'è lui, come è lei. Allora, mia cara, dice dopo 3-4 righe questa volta ancora, comincia così il discorso, ma mia cara, io ci penso, voi potreste dare volentieri, io vi potrei dare volentieri alcune centinaia di franchi perché possiate far la signora e invitare a cena, a una bella cena, i signori Verdurin. Quindi vuole essere cortese con la sua donna e gli dice: vi do dei soldi, i soldi non mancano, per così facciate una bella cena con i vostri amici. Ora voi ascoltate questa finezza, lui è geloso di Madame Verdurin, quindi dare dei soldi, faccia una cena con Madame Verdurin, ma questo in molte donne sapienti o in molti uomini sapienti può essere un modo per allontanare, cioè se tu sei geloso di una, della tua donna e ti mostri molto negativo, critico nei confronti dell'uomo di cui sei geloso, la donna potrà ancora più accostarsi a quel uomo. Ma se tu sei furbo e dici: ma sai che quell'uomo, quel tuo amico è molto simpatico, hai la possibilità di tirartelo dalla tua parte e di far sì che lei in qualche modo cominci a prendere delle distanze. Cioè, se tu sei geloso di una persona che insidia il tuo partner, non mostrarti mai negativo nei confronti di questo partner, se no è finita, salvo che tu abbia in mano la situazione e allora puoi mandare al diavolo il partner. Questi sono principi fondamentali di convivenza tra i sessi che voi alla vostra età, diciamo così, che confina con il lattosio, non sapete ancora, ma che dovrete imparare, va bene? Dunque, mia cara, io ci penso che vi potrei dare volentieri qualche centinaia di franchi perché voi possiate fare la signora elegante invitando a cena i Vermeer. Ahimè, Albertine era parecchie persone. La più misteriosa, la più semplice, la più atroce si mostrò nella risposta che mi fece con aria di disgusto e di cui, a dire il vero, io non distinsi subito le parole, anche le parole dell'inizio, perché non terminò e non le mise insieme, che più tardi, quando ebbi indovinato il suo pensiero, si capisce retrospettivamente quando si è si sente retrospettivamente quando si è compreso. Gran Dio, spendere dei soldi per quei vecchi lì, ma preferirei molto che mi lasciaste una volta tanto libera perché vada a farmi rompere. Subito il suo viso si imporporò, ebbe l'aria costernata, mise la mano davanti alla bocca come se avesse potuto far rientrare le parole che aveva appena detto, perché io non avevo del tutto compreso. Che cosa dite, Albertino? Niente, stavo sonnecchiando. Ma no, eravate assolutamente sveglia. Pensavo alla cena dai Verdurin, molto gentile da parte vostra. Ma no, io non parlo di quello che voi avete detto. Ella mi diede mille versioni, ma che non quadravano. Non dico con le sue stesse parole, che interrotte mi restavano vaghe, ma con quell'interruzione stessa e con il rossone improvviso che l'aveva accompagnata. Su, mia cara, non è questo che volevate dire, altrimenti perché vi sareste fermata? Perché trovavo la richiesta indiscreta. Ma quale richiesta? Di offrire una cena. Ma no, non è questo, non è questione di discrezione tra di noi, ma sì, al contrario, non bisogna approfittare delle persone che ti amano. In ogni caso, vi giuro che è questo. Da una parte mi era sempre impossibile dubitare di un giuramento di lei, d'altra parte le sue spiegazioni non soddisfacevano la mia ragione, non cessai di insistere, ma infine abbiate almeno il coraggio di finire la vostra frase. Voi siete rimasta ferma a rompere. Oh no, lasciatemi! Ma perché? Perché è spaventosamente volgare. Avrei troppa vergogna a dirlo davanti a voi. Non so cosa pensavo quelle parole, non so nemmeno il senso che avevo sentito un giorno nella strada, detto da persone orrende, volgarissime. Mi sono venute alla bocca senza motivo, non si riferiscono a nessuno, a niente. Sogniamo ad alta voce. Sentì che non avrei cavato più niente da Albertina. Ella mi aveva mentito quando aveva giurato poco fa ciò che l'aveva interrotto. Ciò che l'aveva interrotta era una paura mondana di indiscrezione, divenuta adesso la vergogna di fare davanti a me un discorso troppo volgare. Ora si trattava certamente di una seconda menzogna. Infatti, quando eravamo insieme, Albertina e io, non c'erano discorsi abbastanza perversi, parole abbastanza grossolane che non pronunciassimo con gioia. In ogni caso, era inutile insistere in quel momento. stava assediata da quella parola rompere. Albertini diceva spesso rompere il muso, rompere le scatole, o quanto gliene ho dette. Ma diceva questo correntemente davanti a me. E se è questo che aveva voluto dire, perché si era taciuta improvvisamente? Perché aveva arrossito così forte, messo le mani sulla bocca, rifatto in altro modo la frase, e quando aveva visto che avevo sentito la parola rompere, dato una falsa spiegazione? Ma dal momento che rinunciava a proseguire un interrogatorio dove non ricevevo risposta, il meglio era di averla e di non pensarci più, e tornando al pensiero, col pensiero ai rimproveri che Albertini mi aveva fatto di essere andato dalla patrona, cioè dalla signora Verdurin, le dissi molto maldestramente che era una specie di scusa stupida, cioè che era una specie di scusa stupida. Io volevo soltanto pregarmi di venire questa sera alla serata del Verdurin. Frase doppiamente goffa, perché se volevo avevo avuto tutto il tempo, perché non l'avevo detto prima? Furiosa della mia menzogna e resa ardita dalla mia timidezza, se me l'avesse domandato 1000 anni, mi disse, non avrei mai acconsentito. Quelle sono persone che sono sempre state contro di me. Hanno fatto di tutto per contrariarmi. Non c'è gentilezza che io non abbia avuto per la signora Verdurin a Balbec, e sono stato ben ricompensato. Se mi chiedesse di venire al suo letto di morte, non andrei. Ci sono cose che non si perdonano. Quanto a voi, è la prima indelicatezza che vi fate. Quando Françoise mi ha detto che eravate uscito, era contenta di dirmelo. Avrei preferito che mi spaccassero la testa a metà. Ho cercato che non si vedesse nulla, ma in vita mia non ho mai subito una foto simile. Ma mentre mi parlava, proseguiva in me, nel sonno vivo e creatore dell'incosciente, sonno dove finiscono di incidersi le cose che ci sfiorano soltanto, dove le mani addormentate afferrano la chiave che apre, vanamente cercata fino allora. La ricerca di ciò che aveva voluto dire con la frase interrotta, di cui avrei voluto sapere qual era la fine. E tutto a un tratto. Due parole atroci, alle quali non avevo minimamente pensato, caddero su di me. Il culo. Non posso dire che arrivassero in un sol colpo. No, contrariamente al mio modo abituale di ricordare, ci furono, credo, due vie parallele di ricerca. L'una teneva conto non soltanto della frase di Albertino, ma del suo sguardo eccessivo quando le avevo proposto un dono di danaro per dare e offrire un bel pranzo, uno sguardo che sembrava dire grazie a spendere dei soldi per delle cose che mi annoiano quando senza danaro potrei farne delle altre che mi divertono. Ed è forse il ricordo di quello sguardo che mi aveva fatto cambiare metodo per trovare la fine di ciò che aveva voluto dire. E fin lì mi ero ipnotizzato sull'ultima parola rompere. Aveva voluto dire rompere, rompere, ma rompere che cosa? Rompere il muso? No. Rompere le scatole? No, no. Rompere, rompere, rompere, tutto a un tratto, il ritorno allo sguardo con scrollatine di spalle, che aveva avuto al momento della mia frase di offrire un pranzo mi fece retrocedere ugualmente nelle parole della frase. E così vidi che non aveva detto rompere, ma farmi rompere. Orrore! Era questo che avrebbe preferito. Duplice orrore, perché perfino l'ultima delle puttane, e che consente a questo lo desidera, non impiega con l'uomo che gli si presta questa spaventosa espressione. Si sentirebbe troppo avvilita. Con una donna soltanto, se le ama le donne, dice questo per scusarsi di concedersi a un uomo. Ripeto, con una donna soltanto, se le ama le donne, dice questo per scusarsi di concedersi a un uomo. Albertine non aveva mentito quando mi aveva detto che sognava a metà. Distratta, impulsiva, non pensando che era insieme a me, aveva visto la scrollatina di spalle, aveva cominciato a parlare come avrebbe fatto con una delle sue donne, con forse una delle mie ragazze in fiore. E bruscamente richiamata la realtà, rossa di vergogna, ricacciando quel che stava per dire nella bocca disperata, non aveva più voluto pronunciare una sola parola. E io non avevo un secondo da perdere se non volevo che si accorgesse della disperazione in cui stavo. Ma già, dopo il soprassalto di rabbia, le lacrime mi vennero agli occhi, come a Balbec, la notte che era seguita la sua rivelazione dell'amicizia con i Vinteuil, mi occorse inventare immediatamente per il mio dolore una causa plausibile, nello stesso tempo capace di produrre un effetto così profondo su Albertine che mi desse una tregua di qualche giorno. Aspettate che ho perso. Una tregua di qualche, prima di prendere una decisione. Così è il momento in cui mi diceva che non aveva mai provato, non aveva mai avuto un insulto simile a quello che io avevo inflitto a lei uscendo, irritato da questa risibile suscettibilità, stavo per dirle che la cosa era del tutto insignificante, che non aveva assolutamente nulla di offensivo il fatto che fossi uscito da casa. Ma parallelamente, la mia ricerca incosciente di ciò che aveva voluto dire dopo la parola rompere aveva raggiunto un risultato, e la disperazione in cui la mia scoperta mi gettava non era più possibile da nascondere completamente. E così, invece di difendermi, mi accusai. Mia piccola Albertina, le dissi in tono dolce che guadagnavano ormai le mie prime lacrime, io potrei dirvi che avete torto, che io quello che ho fatto non è niente, uscendo per andare di casa dalla verdura, ma mentirei. Siete voi che avete ragione, voi avete capito la verità, povera piccola mia. E il fatto è che 6 mesi fa, che 3 mesi fa, quando c'era ancora tanto amore per voi, io mai avrei fatto questo. È un niente ed è enorme, a causa dell'immenso cambiamento nel mio cuore, di cui è il segno. E poiché voi avete indovinato questo cambiamento che speravo nascondervi, questo mi conduce a dirvi, mia piccola Albertina, le dissi con una dolcezza e una tristezza profonda, vedete, vedete, la vita che voi conducete qui da me è noiosa per voi ed è meglio che noi ci lasciamo. E siccome le separazioni migliori sono quelle che si effettuano più rapidamente, subito, subito, io vi domando, per abbreviare la sofferenza che ci potrebbe essere fra noi, di dirci addio questa sera e di partire voi domani, domani mattina, senza che vi abbia più rivisto, mentre io dormirò. Ecco. Spero che abbiate apprezzato la grandezza di questa pagina, che domani commentiamo.